tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze e Radio Collegate di Bologna e Genova, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Ricordiamo il sito del Circolo Giordano Bruno, www.giordanobrunomi.wordpress.com, calendario anticlericale info@siciliolibertaria.it. 8 per 1000, il grazie dei vescovi lombardi. Si sono pappati ben 80 milioni di euro, come apprendiamo dal supplemento del quotidiano L'Avvenire, i privilegi clericali. A noi atei neanche mezzo euro. Ai preti milioni e milioni di euro, 1 miliardo di euro l'anno circa. Ragazzo seduce un prete, lo riprende mentre si fa masturbare, poi ricatto, voglio 50.000 euro. 22 aprile 2021 da Trieste Today, erotismo clericale. Da Giallo, del 12 maggio, la procura di Enna ha ordinato l'arresto per pedofilia di Don Giuseppe Rugolo, prete che abusava di giovani fragili. Doveva aiutare i ragazzi più deboli, invece abusava di loro. Anche cronaca vera, l'accusa per il Don è di violenza sessuale. Abbiamo poi 3 maggio 2021, 8 cattolici di Milano, multati dalla pubblica sicurezza, festeggiavano di notte un battesimo, violazione delle norme anti-Covid. Da Fatta News, ha ragione Fedez, il Vaticano ha investito in aziende che producono la pillola del giorno dopo, in Germania, ipocrisia clericale. Abusi clericali, 24 aprile 1953, la Madonna pianse lacrime di sangue in provincia di Milano, da 7 giorni del 30 aprile, abusi della credulità popolare. I castrati di Dio, il periodico Varesotto Oltre, del maggio di quest'anno, i castrati erano le star del Settecento. A causa del divieto di canto femminile nei cori, si castravano i bambini. Fingevano incidenti, ma guarda caso, dopo l'Unità d'Italia, e non sono più accaduti, preti eterni nemici della civiltà. Come libro consiglio appunto I castrati di Dio di Angelo Labella. Abbiamo poi fratelli disabili raggirati dal parroco. Migliaia di euro spariti dal nostro conto, 16 aprile 2021. Da immediato.et, misfatti clericali, circonvenzione di incapace, i misfatti dei leghisti filocrocifissi, Phil Commission chiede i danni, l'inchiesta sui fondi della Lega da Il Giorno del 5 maggio, adesso vedremo insomma come va a finire. Riciclaggio, vescovo balestrero sceglie il patteggiamento, ANSA Genova 7 febbraio, anche qui prete coinvolto in reati contro il patrimonio. Viva il libero pensiero, ora è sempre resistenza anticlericale. Il nemico ce l'avete in casa, Fedez fa il comizio contro Vaticano e Lega e contro i leghisti filocrocifissi. Fedez usa il corcentone del 1 maggio per fare un vero e proprio comizio contro il Vaticano, molto bene. Abbiamo poi poche vocazioni, via le suore, 200 bimbi senza scuola, grande vittoria anticlericale a Melzo in provincia di Milano. Le figlie di Maria Ausiliatrice, a causa della carenza di vocazioni, abbandonano la scuola. Abbiamo poi da Giallo del 12 maggio. Se i reati confessati sono gravi, il prete non ha il vincolo del segreto, sentenza della Cassazione. Figlia non riconosciuta a coppia gay, il Comune di Roma bocciato in tribunale, vittoria anticlericale, il Tribunale Civile di Roma ha dato ragione agli anticlericali. Omofobia, il DDL Zan fa un passo avanti, ma la strada è in salita. L'Azione Cattolica costringe alla biura i gruppi locali. Trentini aveva diritto al suicidio, assolti Cappato e Welby, diritto alla buona morte. dal Manifesto del 29 aprile. Abbiamo poi, sulla falsa resurrezione di Cristo, un nuovo caso di finta morte. 18enne dichiarato morto si risveglia poco prima dell'espianto di organi, senza pretendere di essere Gesù Cristo o inviato da Dio. Disgrazie clericali, è morto il dottor Fabrizio Soccorsi, medico del Papa. Qui la maledizione di San Pietro, che ho scritto un libro su questo. Il cellulare non svela il dramma di Francesco, che si è buttato dalla finestra del liceo dei Salesiani. Stava per terminare la verifica di latino, quando improvvisamente si sarebbe lanciato dalla finestra. Il quotidiano nazionale del 5 maggio, sempre molto anticlericale, fate luce sul caso della guardia svizzera assassinata in Vaticano 23 anni fa. E c'è la foto di San Giovanni Paolo II con i due assassinati, la guardia svizzera e la moglie. Abbiamo poi, per concludere, dal mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale, fanatismo religioso, espressione esasperata del sentimento religioso che porta ad eccessi e dalla più rigida intolleranza nei confronti di chi sostenga idee diverse. Fanfaluche sono le saghe e leggende che celebrano il re santo Olaf di Norvegia, basate su una spudorata falsificazione della verità storica, da Carl Deschner, Storia criminale del cristianesimo, volume 6. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata. Io me ne stavo mesto a lavorare, rinchiuso dentro il mastio o di per terra. Un seondi mi venne a salutare, col lieto volto là a non mi serra. Allegro disse, grazie faranno a te, tutti i giornali parlano, combattano per te. Grazie l'accetterò e se mi daranno i miei diritti come a un cittadino. Innocenti li ho fatti, ho 21 anni, non può morire che il marchio dell'assassino. 7 innocenti ci vollero condannare, ma i nostri patimenti chi li ho pensati? Non ebbi l'amicizia od un laguori, e il mio processo nullo o vide sola. Dovrò subirne ancora pene e rancori, dalla rabbia ne mordo coperte lenzuola. E nel pensare quanto dovrò soffrire, mi sento stianto all'anima, lo stesso che morì. In queste quattro mura, o maledetti, la meglio gioventù l'è già svanita. Ricordo delle offese a me dirette, nel condannarmi laga all'era vita. Mondo crudele, vittima da genti di rinnegata fede. pensiero mio, sera e mattina, vola in superione di Santa Croce, via dei pilastri e via, oh Ghibellina, via Borgallegri e Borgo Santa Croce. E addio compagni, e viva la libertà, e questo yei batacchi saluta e se ne va. E addio compagni, e viva la libertà, e questo yei batacchi saluta e se ne va.